Buonasera a tutti e a tutte per questa puntata del 19 dicembre 2024 di Zardins Magnetics. Saremo in diretta insieme a voi questa sera, come sempre ogni giovedì, sulle frequenze di Radio Onde Furlane fino alle 9:30, 21:30. Buon ascolto. I'm stiamo come sempre ascoltando all'inizio della trasmissione alcuni brani, diciamo, musicali, prima di affrontare così i contenuti di questa puntata di Zardins Magnetics. E per questa sera abbiamo scelto di dedicare tutta la puntata monograficamente a un celebre gruppo hardcore degli anni 80, fine 70, inizio 80, Husker Du, da St. Paul in Minnesota. E poi magari diremo anche due paio di parole su questo grande gruppo, insomma, dell'hardcore americano anni 80. E ci stiamo ascoltando dal LP Metal Circus del 1983. Abbiamo ascoltato Real World, Deadly Skies, It's Not Funny Anymore, e in sottofondo adesso c'è First of the Last Calls. Vi saluto anch'io. Allora, questa sera, così siamo appena tornati, quasi appena tornati dalla manifestazione di Tessera, appunto, città metropolitana di Venezia, manifestazione contro la Leonardo SPA, che abbiamo presentato già nella trasmissione dello scorso giovedì. Chi ha ascoltato, insomma, ricorderà che è stato ospite telefonicamente un compagno del collettivo universitario SUMUD, che ha appunto tra i promotori dell'iniziativa, che ha un po' presentato, così, sì, illustrato, insomma, di cosa si tratta, sì, qual era lo scopo di questa iniziativa, ma anche così ha parlato dello stabilimento della Leonardo, specificamente questo stabilimento che si trova appunto in questa località. E allora, prima di commentare, così di fare qualche commento sulla manifestazione, vi leggo il volantino che è stato distribuito durante la mattina e il pomeriggio. Contro la guerra con la Palestina, Leonardo assassina. La guerra non è una questione tra le altre, è l'orizzonte dentro il quale viviamo ora. Dalla gestione di una società attraversata da profonde spaccature, quale la nostra, tramite avanzate repressive come il DDL 1660, che oltre che innalzare il livello dello scontro per chi non si pacifica, inasprisce le condizioni per chi si rivolta per vivere, come le detenute e i detenuti nelle carceri e chi è rinchiuso e rinchiusa nei centri di permanenza per i rimpatri, CPR. All'economia di guerra, fatta di tagli ai servizi pubblici e investimenti per i privati, all'istruzione, il cui ruolo è anche quello di far passare la guerra come una questione tra le altre, normalizzandone la presenza nelle università. Ad esempio il caso di MEDOR, appunto, di questa associazione culturale di Leonardo SPA, e alle scuole superiori, eccetera, alle continue morti sul lavoro, al controllo sociale. La guerra è la forma di governo del presente. Il conflitto NATO-Russia in Ucraina, il genocidio in atto contro il popolo palestinese e l'allargamento del conflitto in Asia occidentale da parte dell'entità sionista sono possibili grazie alla legittimazione culturale e al supporto materiale, cioè bellico, dell'Occidente, Italia in primis. Opporsi alla guerra e al genocidio significa opporsi alla normalizzazione di quanto succede, decidere da che parte stare al tempo del genocidio algoritmico in diretta e della guerra che si globalizza. Per questo è necessario continuare a scendere in piazza al fianco della resistenza palestinese, libanese e yemenita, per dimostrare la nostra solidarietà ai popoli che resistono o ai disertori che scelgono la vita alla morte al fronte, come accade negli eserciti russi e ucraini. Ma dobbiamo anche impegnarci nel conoscere la filiera bellica che nasce dai nostri territori e permette al genocidio e alla guerra di perpetuarsi. Lo stabilimento della Leonardo SPA, la più grande azienda di produzione ed esportazione di armi, a Tessera, nel comune di Venezia, ma come il suo ufficio amministrativo al Vega, Parco Scientifico e Tecnologico di Marghera, sono siti importanti di produzione bellica del nostro territorio. Inceppare la macchina bellica, essere sabbia negli ingranaggi, è il gesto più diretto e solidale che si può fare per opporsi alla guerra e per decidere da che parte stare al tempo del genocidio. Contestare la Leonardo SPA adesso serve per mettere in luce il suo ruolo all'interno del mondo guerra, in un momento storico in cui gli stati occidentali si riarmano per far fronte alla proliferazione di conflitti, sintomi del riassestamento delle alleanze tra blocchi capitalistici attorno alle nuove catene di estrazione e produzione di valore, e in un momento storico in cui la soluzione nucleare non sembra un'ipotesi, ma di più l'unica uscita dall'impasse. Ecco che la Leonardo SPA, ma come tutte le altre aziende belliche, si vedono gonfiare gli introiti. Per loro le morti causate dalle loro armi non sono altro che profitti. Il minimo che possiamo fare è cercare di essere piccoli granelli di sabbia che con modalità diverse abbiano l'obiettivo comune di bloccare gli ingranaggi della macchina bellica per incepparne il normale funzionamento. Allora, questo era il volantino, appunto, che è stato distribuito oggi durante il presidio che si è svolto a Tessera nella piazza della chiesa. Il compagno la scorsa settimana, insomma, diceva che questo era un primo così tentativo di mobilitazione in quel territorio, e anche una così un po' una prova, diciamo, per vedere un po' per un po' anche saggiare, calibrare le capacità di mobilitazione, anche un po' così sensibilizzare in fase iniziale anche la popolazione, la poca popolazione peraltro residente di quel territorio lì, perché appunto è un territorio abbastanza caratterizzato come territorio di passaggio, no? C'è questo stradone che porta da Venezia verso l'aeroporto e la Leonardo stessa, e viceversa, insomma, lo stesso stradone che porta verso Venezia, e il paese, insomma, così è molto piccolo. E diciamo che come primo così prima prova sì, è stata comunque un momento importante, una manifestazione importante. C'è stato una bisogna dirlo, perché non è stata una cosa così consueta. C'è stato un spiegamento di forze e anche una aggressività da parte delle forze della repressione piuttosto intensa, un numero spropositato di tutte le armi, ma anche un atteggiamento fin dall'inizio, fin da subito, dall'arrivo, dall'inizio del presidio, un atteggiamento molto aggressivo e molto accerchiante. Infatti, insomma, c'è stata anche una situazione, lunghe ore di accerchiamento fisico da tutti i lati, quindi senza vie di fuga. E è stato appunto i compagni avevano la proposta era di fare un corteo dalla piazza appunto fino a raggiungere l'ingresso, diciamo, della Leonardo. Il corteo non è stato autorizzato dalla questura, non si capisce perché, cioè per una mossa puramente repressiva, in quanto loro stessi hanno bloccato la strada per 3 ore. Proprio si sono messi e hanno bloccato la strada, hanno deciso di deviare il traffico per 3 ore, ma proprio probabilmente c'era questo intento intimidatorio fin dal primo momento. E comunque diciamo che si è rimasti uniti senza in maniera sobria, si è rimasti uniti e fermi sulle posizioni, e alla fine, insomma, la situazione si è sbloccata con solo una carica, diciamo, immotivata e violenta, ma sì, è finita lì. Avevano preso un compagno, ma poi è stato portato in questura a Venezia, ma poi è stato liberato. E vabbè, poi magari ci saranno aggiornamenti, compagni di là, insomma, faranno sapere anche magari aggiornamenti sulla situazione, ma diciamo che come primo passaggio così di denuncia e di mobilitazione contro la Leonardo e contro in generale la militarizzazione della società, che proprio e lo stato di guerra, insomma, interna oltre che esterna, che proprio anche oggi abbiamo potuto vedere in diretta, è stata un'esperienza sicuramente importante. Stiamo sempre ascoltando, intanto anche durante intervento, da questo chiamiamolo album, ma sono 6 brani, diciamo, degli Husker Du, band hardcore statunitense dei primi anni 80. Il brano in sottofondo, che è diciamo una replica, che l'abbiamo già messa in inizio di puntata, si intitola Real World e dei versi dicono You want to change the world by breaking rules and laws. People don't do things like that in the real world at all. Allora, vuoi cambiare il mondo infrangendo regole e leggi, ma nel mondo reale la gente non fa affatto queste cose. Erano i tempi delle fanzine, punk hardcore, c'era stato, diciamo, tutta un'ondata di gruppi che si mettevano insieme dopo pochi giorni che si conoscevano. Dice Bob Mould dello Squardoo: leggendo le fanzine vedi un sacco di ragazzini che firmano le loro lettere con anarchia e pace. Non credo che siano tanti quelli che vivono ciò di cui cianciano. Voglio dire, stanno a casa coi genitori e sicuramente tengono moltissimo alle loro proprietà. E adesso facciamo un riascolto dei due brani che andavano mentre la compagna, insomma, ci informava. E la prima sono invece, appunto, la voce è dell'altro componente che si chiamava Grant Hart. Hart contribuisce con due canzoni, tra queste Diane, una agghiacciante storia di stupro e omicidio di una cameriera del posto raccontata dal punto di vista dell'assassino, una discendente diretta del teen tragedy songs anni 50, così come delle murder ballads della tradizione folk. Se il testo di It's Not Funny Anymore puntava il dito anch'esso contro il conformismo hardcore, il fatto che il brano fosse una gemma di pop velocizzato, dolce e appassionato, irritava ancora di più le falangi delle creste da moicano. Andiamo con questa Diane. E rimaniamo in strada, questa volta non più a Tessera ma a Genova, dove un paio di giorni fa, cioè martedì, c'è stata un'iniziativa contro un'iniziativa di strada appunto contro 41, il 41 bis e il decreto sicurezza, il pacchetto sicurezza. Questa iniziativa è stata organizzata dai compagni di Genova in occasione della conferenza dell'ex ministra di giustizia Marta Cartabia. E allora vado un po' a leggervi così il testo che loro proponevano per questa iniziativa di strada. Al servizio dell'autorità. I compagni ci ricordano, il 4 maggio 2022 l'allora ministro della giustizia Marta Cartabia firmò il decreto di applicazione del regime del 41 bis per il compagno anarchico Alfredo Cospito. A ottobre 2022 Alfredo iniziò uno sciopero della fame contro il regime di 41 bis e contro l'ergastolo ostativo che durò per 6 mesi, mettendo seriamente a rischio la sua stessa vita. Durante quei 182 giorni scesero in piazza migliaia di persone che insieme ad Alfredo pretendevano non solo che il nostro compagno uscisse da quel regime di tortura, ma soprattutto la chiusura del 41 bis per tutti e la fine dello strumento dell'ergastolo ostativo. Nonostante le proteste e la nostra lotta, il governo, nella persona del ministro Nordio, confermò le disposizioni di Marta Cartabia, condannando a morte Cospito, che invece, ad aprile dello stesso anno, riprese a mangiare, salvandosi la vita. Quello che successe in quei 6 mesi ha dimostrato come lo Stato democratico italiano utilizzi lo strumento della tortura e della persecuzione politica dei suoi nemici senza farsi nessuno scrupolo morale. La ragione di Stato vince su ogni remora garantista. Il 41 bis è un regime di deprivazione sensoriale, di tortura psicofisica, da cui si può uscire solo rinnegando se stessi o vendendo qualcuno al proprio posto. È emerso in modo evidente come eliminare i propri nemici, reali o potenziali che si siano, sia più che un'opzione. E in quella cornice di chiarezza statale di risposta e posizionamento compatto rispetto al trattamento del nemico e di disvelamento del volto torturatore e assassino dello Stato stesso, dal febbraio 2022 continuava a imperversare il conflitto in Ucraina che ha spostato il mondo, per come lo conoscevamo, in un mondo in guerra. Questo fatto epocale chiarisce ulteriormente come la vicenda un anarchico in 41 bis sia stata non un evento eccezionale, ma piuttosto un passaggio di un modello di disciplinamento e repressione, sempre più utile per uno Stato in guerra. Il discorso sotto traccia sembrava essere: ogni possibilità di agire contro lo Stato, ogni possibilità di non adeguarsi, di lottare, è bandita dal regio Stato italico. Senza fare grandi voli pindarici, è possibile individuare una linea di stretta continuità fra quel provvedimento di origine sinistra e firmato dalla Cartabia con il disegno legge 1660, già 1236 al Senato, a firma Nordio, Crosetto e Piantedosi, il cosiddetto pacchetto sicurezza, che ha proprio l'obiettivo di normare il dissenso e la lotta, buttando fuori dal consentito qualunque possibilità di opposizione. Nel contesto di guerra mondiale e generalizzata in cui ci troviamo a vivere, la centralizzazione del potere economico, politico, militare e di propaganda e la contemporanea competizione a livello globale stanno portando alla necessità di azzerare la lotta di classe. Il passaggio è qualitativo e non solo quantitativo. La manodopera deve essere obbediente e sottopagata, pena la concreta possibilità di finire in carceri fatiscenti e militarizzate e luoghi di morte. La prospettiva di un cambiamento, anche non radicale, deve essere dimenticata. La pacificazione deve regnare sovrana. E in Italia, per garantire il controllo della lotta di classe, il potere viene sempre più a centralizzarsi nel governo, vale a dire nell'esecutivo, come è stato per il caso di Cospito, così come sembra apparire per il caso dell'appalto dei lager in Albania. E come conferma il pacchetto sicurezza, una chiara dichiarazione di guerra nei confronti dei reietti, degli esclusi, volontari o meno. alla ricetta che ci stanno preparando, manganello all'interno, bombe all'esterno, la migliore risposta non può che essere aprire nuovi spazi di lotta e di conflitto e di solidarietà e di mutuo appoggio, ripartendo dalle forme di lotta che ci vorrebbero togliere di mano. Contro il 41 bis e l'ergastolo ostativo, no al decreto legge 1660, contro lo stato di guerra, per il conflitto sociale. Everything falls apart. stiamo ascoltando sempre gli Husker Du per questa puntata di Zardin Magnetics di giovedì 19 dicembre 2024, puntata natalizia per così dire, e siamo in formazione ridotta e quindi ci arrangiamo come possiamo con la musica, non abbiamo i consueti, diciamo, pepite d'oro che vengono proposte e da vinili, da quant'altro, insomma, frequenze calde. Qui abbiamo solo musica distorta, ulteriormente compressa e fornita, diciamo, dal digitale. Comunque siamo ripiombati con questi Husker Du 40 anni indietro, sono in pieno 1983, gennaio 83 usciva questo Everything Falls Apart, era di poco precedente il Metal Circus che abbiamo ascoltato prima. Sì, io questa sera eviterei il primo album, che è Landspeed Record, che insomma è più, diciamo, dogmatico del insomma, esprime una certa scena precisa, hardcore statunitense, precisamente appunto di Minneapolis, ma comunque ecco, qua c'è già una prima svolta, per così dire, decisa svolta, insomma, su musiche un po' più, ecco, melodiche. Da qualcuno ha detto, anche dopo sono stati accusati di essere commerciali eccetera, perché hanno anche firmato con una major, ma lo hanno fatto semplicemente perché erano insoddisfatti di quello che i loro amici della, diciamo, della SST, delle etichette indipendenti statunitensi di quel periodo erano in grado di fornire. Dice ancora Bob Mood, l'hardcore che ricordo io era un sacco di band energiche e non gente che dice dobbiamo seguire una formula. Le nuove band si sono rinchiuse in quella mentalità, sono terrorizzate dal fare qualsiasi altra cosa perché pensano che quella sia la forma pura, una montagna di stronzate, è solo un mucchio di regole, è per questo che non stiamo più al gioco, e quindi si sono portati su così suoni un po' diversi, più lenti, e non, ecco, non fanno più parte di quel contesto, ecco, dogmatico, che poi si andò a finire in, si disperse completamente, passata la moda, o ancora peggio appunto, insomma, molti di quelli ancora oggi, diciamo, sono quelli famosi, quelli con i tatuaggi, tatuaggi e le top che poi appunto gridano anarchia, anarchia, e poi non li vedi mai in situazioni. Ma comunque andiamo avanti con questo Everything Falls Apart degli Husker Du. Ascoltiamo ancora qualche pezzo. We'll be right back. Allora, Danny defend the pose. Queste tre parole, insomma, si sono diffuse particolarmente in questi giorni. Appunto, Danny, che significa nega e si riferisce a ciò che fanno le compagnie private di assicurazione negli Stati Uniti sulla salute, compagnie di assicurazione sulla salute, e cioè negare la copertura sanitaria, negare l'errore, negare le richieste legittime di risarcimento da parte dei pazienti. Difendi, cioè sempre queste azioni queste compagnie assicurative intraprendono, azioni legali contro gli assicurati. Depose, deponi, e cioè utilizza strumenti legali per sfinire i querelanti con interrogatori estenuanti e burocrazia. Però queste tre parole, Danny, defend, depose, sono anche, erano scritte, incise sulle tre pallottole che hanno fatto fuori un CEO, e cioè un amministratore delegato di una di queste compagnie, United Health Care, statunitensi appunto. Questo amministratore delegato si chiamava Brian Thompson e è stato ucciso appunto in maniera mirata, insomma, con queste tre pallottole da un giovane che si chiama, cioè quantomeno indagato è Luigi Mangione, ma questo giovane ragazzo, insomma, è diventato un po' una è diventato un simbolo, diciamo, cioè viene sostenuto, non so, più che un simbolo, viene sostenuto da in una maniera molto diffusa, insomma, molto popolare. E una cosa singolare è che non viene tutte le persone, insomma, che lo sostengono, tutte le persone che lo sostengono sulla base del fatto che patiscono sulla propria pelle questa impossibilità, diciamo, di curarsi, questa minaccia continua e ricatto continuo, insomma, da parte di queste compagnie. In quanto appunto la sanità negli Stati Uniti è totalmente privatizzata, e se non hai queste assicurazioni non ti lasciano morire per la strada, letteralmente non puoi nemmeno ottenere i farmaci salvavita nelle farmacie, cioè le farmacie sono presidiate dalle guardie giurate, insomma. E appunto, dicevo, questo sostegno, diciamo, a questo presunto omicida, giustiziere, non so come chiamarlo, è significativo perché la gente non dice Mangione è innocente, ma dice Mangione libero. Quindi sì, non porta avanti una questione di innocenza, diciamo, legale, ma porta avanti una questione di contenuto, di sostanza, e cioè il fatto che deve essere libero in quanto ciò che ha fatto appunto non è riprovevole, al contrario. Vado da un contributo che è comparso sul Rovescio, vado a leggervi alcune parti. Per comprendere un tale fenomeno bisogna capire innanzitutto chi era l'ammazzato. Vabbè, intanto ci dicono che un consulente del Network Contagion Research Institute ha scritto alcune righe gustose su questa faccenda. L'uccisione di Thompson viene accolta come una specie di segnale d'inizio di una più ampia guerra di classe. E allora appunto vediamo chi era l'ammazzato. Solo l'anno scorso United Health Care, di cui Brian Thompson era l'amministratore delegato, ha fatturato 22 miliardi di dollari di profitti, fatti letteralmente sulla pelle di milioni di persone. I maggiori azionisti di questa compagnia sono il gigante della gestione patrimoniale Vanguard, che detiene una quota del 9%, seguito da BlackRock 8%, Fidelity 5,2%, le tre formule standard rese celebri dai proiettili con cui Thompson è stato tirato giù dalle spese, attraverso le quali la società nega la copertura assicurativa per le cure mediche, non valgono soltanto per interventi chirurgici particolarmente costosi. Quel Danny è una risposta automatica, cioè nega, è una risposta automatica per un sacco di gente e ogni giorno. Lontano dai quartieri di lusso, in quegli ectoplasmi che non sono né campagne né città, ma interland in mezzo al deserto, commesse, pulitori, operai, rider, fanno la fila per entrare in farmacie indistinguibili dai supermercati, con la guardia armata all'entrata in cui tutto, persino il dentifricio, è chiuso a chiave dietro il vetro. Finita la fila, un addetto che emana quel sottile sentore di ammoniaca che fa pensare a una malattia endocrina, comunica che il farmaco prescritto dal medico non può essere consegnato perché manca l'autorizzazione preventiva da parte della compagnia assicurativa. Aggiungiamoci anche il sentimento di essere delle cavie per l'industria farmaceutica e per Big Tech. Pensiamo per esempio alle terapie digitali, la cui commercializzazione è stata autorizzata dalla Food and Drug Administration nel 2017. A spingere la gente ad accettare farmaci, software dotati di nanosensori attraverso i quali il telemedico può monitorare l'attività neuropsichica e metabolica è spesso il ricatto di evitare in tal modo una polizza assicurativa più cara. In maniera più prosaica, dei dipendenti pubblici si trovano costretti ad indossare un Fitbit, un orologio digitale che misura il numero di passi, altrimenti la United Healthcare di turno può decidere di non assicurare chi ha una vita considerata non sana sulla base dei dati forniti da quel Fitbit. Nella gioia per la morte di Thompson c'è tutto questo, cure negate, certo, ma anche umiliazioni garantite da guardie armate, possibilità chiuse a chiave, passeggiate obbligatorie e una miseria che sa di ammoniaca. Se poi il vendicatore è un giovane bianco di bel aspetto e di famiglia benestante, laureatosi in una prestigiosa università a cui si attribuiscono un manifesto politico anticapitalista, delle simpatie per Ted Kaczynski e dei modi piuttosto gentili, questi parassiti la devono pagare, mi scuso per i traumi provocati, ma andava fatto. La sua brutale onestà, altra espressione attribuita a Mangione, comunica un senso di riscatto e di speranza perché spezza la più potente, se non la sola rimasta, ideologia contemporanea, l'inevitabilismo. Mettiamoci ora dal lato dei capitalisti, degli amministratori delegati e dei tecnocrati. Al loro sentimento di costituire una razza superiore non contribuiscono soltanto l'istruzione, i privilegi quotidiani e l'appartenenza a una ristretta comunità. A un simile darwinismo sociale, lo stesso che ha prodotto storicamente l'eugenetica, oggi si aggiunge qualcosa di inedito: la possibilità di raggiungere, se non l'immortalità, una vita aumentata. Nel mondo del transumanesimo realmente esistente, questa upper class spende milioni di dollari in biotecnologie anti-invecchiamento e in medicina rigenerativa, con l'idea, che le si vende cara, di vivere fino a 120 anni. Questa nuova razza di signori è pervasa quindi dal terrore di incidenti che possano ridurre il suo capitale biologico e possiede allo stesso tempo il potere di costruire una società panottica a misura delle proprie paranoie. Per questi Gated Dreams, il fantasma col cappuccio che si è materializzato in Avenue of the Americas a Manhattan il 4 dicembre scorso è un incubo umano, troppo umano. Osservando quanto un solo gesto abbia polarizzato le passioni di un'intera società, c'è di che riflettere. Se il giudizio di fatto è persino banale, quello di valore non lo è affatto. Su questo abbiamo letto soprattutto formule cautelative, distinguo, precisazioni non richieste, di non voler fare né apologie né istigazioni. E poi le immancabili tirate contro l'individualismo, il terrorismo, eccetera, oppure versioni antagoniste dell'inevitabilismo. Morto un amministratore delegato, se ne fa un altro. Per noi vale l'esatto opposto, l'azione violenta, quando è ben discriminata, va sempre difesa. Poco importa che sia individuale o collettiva. Se come in questo caso è addirittura cristallina, la difesa diventa essa stessa uno strumento di propaganda rivoluzionaria. È vero che a Thompson succederà un altro CEO, ma si può ripetere oggi quello che l'anarchico Galleani diceva di Umberto I. Il paragone non appaia esagerato, perché il potere dei Thompson non è affatto inferiore. Il re ammazzato insegna al suo successore, se non altro, la moderazione. La qualcosa va a pro di tutti gli sfruttati. E sembra proprio questo il caso. Le formule Deny, Delay, Defend si sono fatte magicamente meno arroganti, migliorando un poco la salute degli individui della classe. Poteva riuscirci anche l'azione collettiva? In astratto sì, nel concreto quale? Intanto una notizia sembra confermare la saggezza di Galleani. A neanche una settimana dall'uccisione di Brian Thompson e alla vigilia dell'arresto di Luigi Mangione, un'altra assicurazione sanitaria, la Anthem Blue Cross Blue Shield, ha fatto marcia indietro su una decisione semplicemente disumana che aveva annunciato di ridurre la copertura sanitaria sulla durata delle anestesie. L'azienda era da tempo al centro di numerose proteste. Se non possiamo sapere esattamente che cosa le abbia fatto cambiare idea, siamo piuttosto sicuri che in quei giorni le pallottole esplose su Thompson riecheggiavano anche nelle teste dei dirigenti della Anthem. E per concludere, mentre ci auguriamo con tutto il cuore che i tre spari di Midtown Manhattan siano davvero una specie di segnale d'inizio di una più ampia guerra di classe, possiamo dire di Mangione quello che diciamo sempre dei nostri compagni incarcerati: se è innocente merita la nostra solidarietà, se è colpevole la merita ancora di più. Anzi, per una volta, rinunciamo volentieri alle nostre formule: nega, difendi, detronizza. Mangione, libero. Allora, mentre sono le 21.06 di questo giovedì sera, 19 dicembre, per questa puntata ennesima di Zardins Magnetics Radio, e siamo sempre all'ascolto di questi Husker Du, e abbiamo appena ascoltato una cover, 8 Miles High. E la storia dietro questa cover, nell'inverno 83-84, o meglio no, scusate, siamo sempre nell'83, in tour. Il tour era stato attaccato a un'apparizione durante una serata del Music for Dozens, rassegna non pregiudizialmente ostile al punk, che si teneva al Falls City, il mitico buco del Greenwich Village, dove Bob Dylan spesso si esibiva nei primi 60. La band sapeva che la prima impressione a New York era cruciale. Lo show al Falls City si prestava benissimo, ricorda Hart. Era un modo eccellente per dimostrare che eravamo parte di una tradizione più ampia, la manifestazione moderna di una libertà di pensiero che esisteva da molto tempo prima di noi. Fu così che gli Husker Du suonarono una cover di 8 Miles High dei Byrds, in omaggio al folk rock dell'epoca del Vietnam, solo che la frantumarono in migliaia di schegge urlanti. Pensavamo di suonarla proprio come i Byrds, disse Mood. Il mio problema in tutti quegli anni, tutti questi anni è stato proprio quello, ho sempre pensato di fare musica pop. 8 Miles High è un classico della psichedelia americana. In quel periodo c'erano diverse band, i 3 O'Clock, The Bangles, i Rain Parade, che replicavano gli aspetti più superficiali dei Byrds e di altri gruppi 60s, ma che non erano psichedeliche per nulla. Ciò disgustava Hart, Mood e Norton, cioè gli Husker Du, almeno quanto il conformismo della scena autoproclamatasi non conformista dell'hardcore. Proprio per questo presero una delle vacche sacre della psichedelia e le diedero una bella spazzolata. Va bene. Quindi, prima con Metal Circus e poi in modo ancora più evidente con 8 Miles High, pubblicato come singolo nel maggio 84, gli Husker Du tentarono quello che nessuna band punk aveva mai tentato: suonare musica che potesse farti piangere. Canzoni come Diane, Everything Falls Apart erano straordinariamente toccanti, non solo biliose dichiarazioni di alienazione, ma musica a cui potevi appendere il cuore, dice sempre questo, insomma, Michael Azzera, un libro uscito quasi 20 anni fa. E io volevo anche legarmi a una intuizione di, cioè una dichiarazione fra le tante che fece un altro di quella scena là, Steve Albini. Il punto, dice Albini, era creare qualcosa di cui si intuisse l'intensità mentre la suonavamo, piuttosto che qualcosa con piccoli indicatori di intensità incapsulati dentro. Albini era uno che di intensità se ne intendeva. L'heavy metal e roba simile non mi sembrano intensi, mi sembravano comici, dice. L'hardcore punk, il più delle volte, invece, mi sembra infantile. È in quel senso che volevo differenziare quel che facevamo noi da quello che facevano gli altri. E parla della sua musica, comunque credo che si possa, diciamo, si possa vestire questa dichiarazione anche alla sostanza della musica degli Husker Du. Insomma, sono sì, più che creare creare intensità, direi estrarre delle intensità da quei suoni lì, a prescindere, insomma, da contenuti, ecco, da slogan, era anche un lavoro di introspezione esistenziale che si faceva e che diventò sempre più evidente con addirittura il concept album, doppio album dell'84, che si intitolava Zen Arcade, che adesso andremo ad ascoltare. Punto. Concept album, per giunta doppio, l'epitome assoluta degli eccessi tipici dei dinosauri del rock, ma la trama avrebbe potuto benissimo raccontare la storia di uno qualunque tra le migliaia di ragazzini hardcore. Un giovane scappa dai suoi genitori litigiosi e dai suoi amici da poco, vaga per le vie di una grande città cercando di capire qualcosa di sé, è tentato di unirsi a una setta religiosa, incontra una ragazza che poi va in overdose, alla fine, dopo una dura introspezione, torna a casa, ma introverso, come avviluppato in uno scudo protettivo emozionale. Andiamo ad ascoltare qualche brano di quel gran disco.

Mentre lasciamo andare questi brani, abbiamo ascoltato da Zen Arcade del 1984, dagli Husker Du, abbiamo ascoltato Something I Learned Today, Broken Home, Broken Heart, Never Talking to You Again, Chartered Trips, Dreams Occurring, e adesso in sottofondo c'è Indecision Time. Io direi che lasciamo andare e non affrontiamo altri il successivo percorso di questa grande band, ma lasciamo andare questi brani da Zen Arcade, mentre appunto stiamo andando alla conclusione di questa puntata del 19 dicembre di Zardoz Magnetics. Vi ricordo, andiamo in onda tutti i giovedì sera e queste sono le frequenze 90 MHz di Radio Onde Furlane di Udine che ci ospita. Zardoz Magnetics è messo insieme dall'Assemblea Permanente contro Carcere e la Repressione di Udine, come no, di Friuli e Trieste. Già da un po' di anni, state ascoltando appunto, probabilmente abitate in zona, altrimenti con lo streaming raggiungibile da tutta Italia, sempre in diretta sul sito della radio Onde Furlane, altrimenti in podcast, cioè in replica, mentre, parentesi, ci sono delle radio, web radio, che ci rimbalzano le nostre trasmissioni, e sono precisamente Radiazione e Radio Eustachio anche. Chiusa parentesi, voi potete ascoltarci andando sul nostro blog, che è Zardoz Magnetics radio.noblogs.org, dove vengono caricate appunto i file audio insieme a una, insomma, quello che abbiamo detto e altri riferimenti. Per essere sempre aggiornati con le promozioni delle puntate, oppure anche talvolta mettiamo anche, diciamo, le locandine di alcune iniziative che sosteniamo, oppure che addirittura promuoviamo noi stesse, c'è il canale Telegram, che è Zardins. Semplicemente cercando su Telegram trovate il canale. Ultima cosa da dire: per contattarci c'è sempre la mail, il contatto mail, che è liberetutti@autistiche.org. Ultima cosa, penso poi che abbiamo detto tutto, è: esiste la possibilità di scriverci, ed è stata una possibilità che è diventata anche più di una volta realtà. Ci hanno scritto, insomma, vari ascoltatori e ascoltatrici, e scriveci carta e penna all'indirizzo Associazione Senza Sbarre, casella postale 129 34121 Trieste. Questa è la casella postale che utilizziamo per le corrispondenze con i detenuti e con i compagni, ovviamente, prigionieri, e tutti coloro, appunto, che sono privati della libertà, a cui ovviamente va come sempre un saluto particolare da parte nostra. Devo dire che abbiamo detto tutto, non resta altro da fare che darvi appuntamento non per il prossimo giovedì, che è festivo, o meglio, non andremo in diretta, stiamo ancora valutando, diciamo, pensando cosa mandare. Invece in diretta ci risentiremo il giovedì 2 gennaio, penso, l'anno nuovo, il 2025. Questa quindi è l'ultima puntata del 2024. Vi auguriamo una di passare bene la fine di questo annaccio, insomma, che vada sempre in meglio le cose. Ci risentiremo nell'anno nuovo. Ho avuto io questo compito quest'anno di farvi, insomma, questi auguri infernali. Vi facciamo un saluto e vi aspettiamo, insomma, ci sentiamo la prossima volta. Davvero un saluto a tutte e tutti.